Essere se stessi è la condizione unica per vivere pienamente la nostra esistenza. Pensiero libero, ricerca personale, il piacere del confronto e il volo perenne verso nuovi altrove. Innalzarsi tenendo i piedi per terra, salpare ancorati alla vita di tutti i giorni. Questa è la mia sola e unica droga. Tutto il resto è boia. Scritto da Flavio Oreglio.